Io non lo so, io ero un operaio, i pensieri complicati certe volte volano troppo alto. Mi sembra che è così, ma poi altre volte mi sembra che è stato tutto inutile, anche la mia morte. Inutile. A meno che... Aspettate, ho degli appunti. Uno me l'ha dato mio figlio, eccolo. Anche se è morto, non è detto che l'uomo sia sconfitto. E l'altro è il mio nipotino. Il nipotino ora è un omone. Sentite, forse non lo sai, ma pure questo è amore. Il tempo è finito. Bene, il mio tempo è finito e anche il mio racconto. Ed è il momento di tornare. Io sono l'ultimo degli otto. Io sono Vittorio. Zambarda Vittorio, anni 60, ex operaio, appena andato in pensione. La bomba mi ha squarciato il corpo, ma non mi ha ucciso subito. Ci sono voluti altri 18 giorni per morire. Dalla bomba alla morte. Solo 18 lunghissimi giorni brevissimi. Io ho dato la mia vita. È tempo, non ne ho più. Ma voi, su quello che è successo, di tempo per pensare ne avete tanto. Voi avete la forza e la rabbia di resistere. E allora pensate, allora. Pensate e resistete. Resistete, resistete. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il movimento sociale italiano vive e vegeta. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano... Vittorio cade a terra, mentre gli scoppi lo spettacolo Stracci 1974 di Gianni Fusco, con Gianni Fusco, Giulia Marcello, Michele Fusco. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con l'autrice e regista Arianna Dell'Arti per presentare lo spettacolo Wonder Woman, interpretato da Paola Michelini al Teatro Torlonia, una delle serate sgombro, venerdì 28 maggio 2021. Arianna, ben trovata! Evviva! Siamo tornati! Siamo tornati, e siamo per far ridere poi. Tutte e due, eh? È tragicomico lo spettacolo. È tragicomico. Raccontacelo un po'. Ah no, vi dico solo, dico poco. Dici poco. Dico che è un monologo dove la nostra attrice Paola Michelini deve attraversare lo sceno che le abita per superare un dramma. Detto così, sembra due palle. E invece no. E da dove nasce questo lavoro? Io iniziai a scrivere, a buttare giù due così cazzatine durante un laboratorio che feci con Lucia Calamaro. Buttai giù proprio due cose. Dopodiché uscì questa data al Torlonia un anno e mezzo fa, perché io dovevo debuttare l'anno scorso a marzo con questo spettacolo. Mi diedero la data. E io ero in vacanza in Thailandia e mi chiesero subito il titolo. E io non avevo scritto niente, cioè ho scritto veramente una paginetta, ho detto Dio il titolo, per cui ho trovato il titolo e dopodiché ho scritto lo spettacolo, che è inerente, attinente, è giusto, insomma ci sta tutto, perché io avevo una nebulosa in testa, no, prima di buttarlo giù. Però è andato così, è andata una cosa un po' al contrario, generalmente il titolo si trova dopo. Io in realtà sono quasi partita da quello, che Wonder Woman inteso come donna che vaga. Wanda è scritto proprio con la... E così in due mesi l'ho buttato giù, poi siccome dovevamo debuttare a marzo, abbiamo fatto tutte le prove tutto febbraio e poi lockdown. Il rapporto con Paola Michelini? Ah, meraviglioso, Devo dire che io e Paola lavoriamo in modo eccellente, sono molto felice di lavorare con lei, sono molto felice che lei si sia accollata, come dire, un mio testo, fantastico, spero di fare tantissime altre cose con lei. Come l'avete costruito insieme? Io scrivevo e le mandavo le cose, poi le aggiustavo, gliele rimandavo, poi abbiamo cominciato a leggerlo, poi facendo io pure la performer praticamente le spiegavo le intonazioni perché ho scritto questo testo senza mettere didascalie, cose, niente, per cui poi conosce un po' la mia scrittura, sa che ci sono tante voci, che ci sono tante cose all'interno, e però l'abbiamo letto, l'abbiamo studiato insieme e piano piano poi con la mise en scène si sono definite tante piccole cose, però di base... Io le ho dato il testo finito, noi abbiamo cominciato a provare una volta che il testo era già scritto tutto. Non abbiamo fatto una messa in scena, no, una scrittura in scena, no, questo no, perché io la scrittura in scena me la faccio da solo, perché poi quando scrivo io le provo le cose, no, me le dico, le faccio, insomma, ho questo modo di scrivere così. No, è stato bellissimo, proviamo tutti i giorni, poco, un paio d'ore. Non è l'unica esperienza teatrale collettiva a cui partecipi. Cosa ti piace di Sgombro? Sgombro è uno dei collettivi più importanti che ci sono, secondo me, in Italia, con dei grandi performer che in questa rassegna hanno potuto mettere ognuno il proprio spettacolo. Chi l'ha visto al Cinema Palazzo, insomma, è stata una delle cose più importanti che sono state fatte, per cui è bellissimo che Sgombro abbia messo il cappello, no? Anche sul nostro spettacolo in qualche modo. È bello che il teatro un po' esca e vada nei posti istituzionali. Ecco, diciamo così. E Sgombro se lo merita, poi sono andati a finire all'Argentina durante il lockdown, insomma, con corsetti. Insomma, bene, bene. È bene che si faccia spazio a questi nuovi linguaggi anche, no? Questo periodo di lunga sospensione ti ha visto creativa? Né, non tantissimo, devo dire la verità. Ho immagazzinato cose, nel senso che ho letto tantissimo. Non sono stata particolarmente creativa. Forse delle cose mi stanno uscendo adesso. Non ho avuto quella bulimia da creazione, da ansia di sfruttare il tempo per buttare giù roba. Io sono stata abbastanza immobile, se devo dire la verità. Mi ha un po' paralizzata. Ognuno poi reagisce a modo proprio e credo anche che parlare di questo periodo sia ancora prematuro. Cioè io lo devo perlomeno digerire, devo capire che è successo ancora. Cioè non ho capito bene, sinceramente. Cioè come sono cambiata, che cosa è successo dentro di me. Non lo so bene, non lo so spiegare. Per saperne di più sullo spettacolo ci dai un po' di riferimenti internet? Sul sito del Teatro di Roma, Teatro Torlonia, ci sono i biglietti online, ce ne sono rimasti pochissimi, per cui se qualcuno volesse acquistarlo si deve sbrigare perché sono ormai rimasti 6, 7, una cosa così, altrimenti si può sempre provare a venire a teatro la sera perché magari qualcuno disdice, per cui magari un biglietto si trova. Sito del Teatro di Roma, Teatro Torlonia, Wonder Woman, e lo trovate insomma facilmente. Il monologo Wonder Woman con Paola Michelini in scena al Teatro Torlonia venerdì 28 maggio 2021 in una delle serate targate Sgombro. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e regista Arianna Dell'Arti. Un in bocca al lupo e a presto. Crepi, crepi! È alle 19, lo dico per gli orari, capifuochi, cose. Ore 19. Con Marco Berardi, autore dello spettacolo Non è uno spettacolo per bambini, ballata digitale per un pezzo di legno. A Roma, Teatro della Visitazione, dal 25 al 30 maggio 2021. Ben trovato, Marco. Ben trovato, Fede. Ci racconti di questo progetto? Diciamo il capitolo finale di una saga di 3 spettacoli che insieme al mio regista e maestro Federico Vigorito abbiamo buttato in scena. Il primo si chiamava Circus e riguardava il circo e quindi erano i pagliacci, il tipo di pupazzo, il tipo di maschera che ci affascinava, ispirato ai due libri che ha scritto Gino Strada. Il secondo invece abbiamo scomodato la regina delle maschere, che era Arlecchino e si chiamava La ridicola notte di P. Era un ultimo confronto tra Pierrot e Arlecchino, la prima e l'ultima delle maschere, due maschere diametralmente opposte. E sebbene per tanto tempo abbiamo provato a ignorare il fascino che esercitava su di noi la più italiana, il più italiano dei pupazzi, alla fine il terzo è andato a finire su Pinocchio. Qui Pinocchio ci ha sempre molto affascinati e spaventati, perché ogni tanto reciccia, ogni tanto se ne fa uno, quindi siamo partiti come si fa dal testo, me lo sono letto una mezza dozzina di volte e non riuscivo proprio a provare rabbia per quelle piccole bugie che diceva Pinocchio, e più delle volte le dice per sopravvivere queste bugie, cioè avremmo fatto tutti la stessa cosa, anzi. E invece vediamo che Pinocchio è un maledetto romanzo pieno di abusi su un minore che in quanto burattino non ha i diritti che ha un bambino. Però è un romanzo, se vuoi, di una violenza inaudita, cioè di tutto. Pinocchio viene impiccato, gli assassini nella foresta gli piantano i coltelli arrugginiti nelle reni, viene annegato, viene minacciato, viene bruciato, quello che fa su di lui la fata turchina è terribile, viene terrorizzato, viene riempito di sensi di colpa. E allora ci chiediamo perché c'è tutto questo successo, questa storia, perché in Italia, noi nella scheda di presentazione diciamo che è un simbolo di italianità, se la gioca con la pizza e poche altre cose, se poi con la mafia, perché lo vediamo così tanto bene, perché ha avuto tutto questo successo. E troviamo insomma in questo testo, questo è un Pinocchio maturo che decide di dire un po' la sua, io ovviamente lo dico molto in soldoni, però il grande merito che noi diamo a Pinocchio è quello che è colpa sua, solo così potrà non essere colpa nostra, perché è questo che a noi piace tanto, io dico a noi italiani, ma poi penso sia una cosa che appartiene al mondo, ma io conosco meglio il paese in cui vivo. È colpa tua, Pinocchio, così potrà non essere colpa nostra, per questo l'amiamo. E quindi Pinocchio è il simbolo di ogni minoranza, di ogni disperazione, di ogni solitudine. Lui è talmente minoranza che non ha una minoranza a cui appartenere, è lui la minoranza a cui appartiene. Pinocchio nel paese dei balocchi che sogna, nel posto felice, è un migrante. L'amore di Pinocchio, e qui non dico chi è, ma è un amore sbagliato, è un amore che ha difficoltà ad esistere, come vediamo adesso, insomma, con la fatica che sta facendo questo DDL Zan, che dovrebbe essere una banalità, invece noi ci permettiamo, insomma, di dire certi amori sono sbagliati, certi amori non funzionano. E allora vediamo che Pinocchio è più attuale che mai, perché appunto rappresenta tutte quelle enclavi piccole, minoritarie, a cui la grande maggioranza comoda e appagata può dare la colpa e risolvere i suoi conflitti di coscienza. Avete lavorato insieme anche alla messa in scena? Sì, con Federico Vigorito è bello lavorare, è esaltante, perché io non sono un autore morto, che è una cosa che non è così usuale nel teatro che si fa adesso, quindi c'è una reciprocità totale nel testo, cioè si parte dall'intuizione che spesso è sua, e io butto giù qualche pagina, gliela porto, lui mi dà le sue suggestioni, è una cosa che si costruisce piano piano, tu pensa che niente mi esce una martedì, io l'ho depositato in SIAE oggi, perché sto adesso ho continuato a essere rimaneggiato, poi questo è un monologo, quindi anche la fortuna di avere anche l'interprete, perché con una compagnia magari è più complicato, ma in tre è proprio un lavoro corale, è frutto di un'intelligenza collettiva, è un bellissimo modo di lavorare, soprattutto nel teatro. Hai detto un monologo, ecco, come l'avete pensato sul palcoscenico? Lo spettacolo non avviene sul palcoscenico, noi abbiamo la fortuna che nel teatro della Visitazione ci sono 4 file di poltrone che sono carrellate, quindi le possiamo girare e fare come ci pare. Il palco è chiuso, abbiamo messo Pinocchio al centro della sala con le poltrone, ovviamente, che lo guardano, è come se guardassero in casa questo Pinocchio adulto. Il palcoscenico è il centro della sala e gli abbiamo costruito la sua casetta, la sua gabbia, improvvisando in questo Federico Vigorito è un genio, improvvisando sopra questa casa una piccola graticcia dove poter accendere i proiettori che ci serviranno. L'attore Camillo Marcello Ciorciaro si accolla poi tutto, io dico sempre, io sono grato infinitamente a chi si accolla i lavori che io non avrei mai fatto, e soprattutto le categorie a cui sono più grato sono gli attori e i dentisti. Camillo Ciorciaro è un attore sensazionale, è generoso, è preparatissimo, è tecnico, è molto bravo, ma come dicevo appunto anche lui si è prestato proprio al processo creativo, non è l'attore che viene con la memoria, può trovare le cose al suo posto e la dice, ma ci divertiamo a lavorare con tante contaminazioni di linguaggi, quindi ci saranno delle riprese in diretta, ci saranno delle registrazioni analogiche, queste sono tutte cose che l'attore agisce in scena e che fa lui proprio, fa lui partire i video dal suo computer, quindi è una regia interna al palcoscenico proprio, oltre a quella esterna che si prende cura di tutto, quindi ci stiamo divertendo un sacco. Quindi è un personaggio adulto? È un personaggio adulto, è un Pinocchio, da quello che non vediamo è perché questa sera Pinocchio ha deciso di dire la sua, cosa è successo, cioè qua dopo 300 anni Pinocchio è un bambino vero che cresce, che matura, gode dell'immortalità, del successo del suo personaggio, però insomma è un adulto, Camillo ha 40 anni e lui riracconta, rivive la sua storia parlando delle torture, che questa cosa del naso che cresce in realtà è una tortura che gli fa la fata turchina per fargli dire dove sono questi cazzo di 5 stecchini d'oro, è una cosa da infami, gli fa malissimo secondo noi, gli fa entrare questi 6 conigli che trasportano la sua bara sulle spalle, perché lui non prende la medicina, Pinocchio non sa che cos'è una medicina, non sa che c'è in quella medicina, Pinocchio ha un giorno di vita, si addormenta con i piedi sul camino e gli bruciano i piedi, è veramente distrutto, lui ci racconta quindi com'è andata, dal suo punto di vista la sua storia e per una dimensione privata, che quella poi è l'intenzione letteraria un po' che abbiamo in questo caso, stasera è la sera, è il momento giusto, gli è successa una cosa nella sua vita privata che lo spinge a raccontare definitivamente e finalmente la sua versione dei fatti. Per tutte le informazioni ci dai dei riferimenti web? Che io sappia, dovrebbe essere stata creata una pagina Facebook, non è uno spettacolo per bambini, poi sicuramente sul Facebook del Teatro della Visitazione e poi, visto che siamo in tre, insomma, la promozione ce la stiamo facendo un po' noi, quindi dalle nostre pagine Facebook, Instagram, Marco Berardi, Federico Vigorito e Camillo Marcello Ciorciaro. Non è uno spettacolo per bambini, ballata digitale per un pezzo di legno a Roma al Teatro della Visitazione dal 25 al 30 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento all'autore Marco Berardi. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie tante e sempre viva Radio Onda Rossa, sempre! Con Mauro Toscanelli, regista dello spettacolo Occhio al cuore di Emiliano Metalli, liberamente ispirato al cuore rivelatore di Edgar Allan Poe, a Roma, Teatro Lo Spazio, dal 28 al 30 maggio 2021. Ben trovato. Ben trovati a voi, e mai come in questo momento la parola ben trovati è foriera di gioia, no? Per la ripresa delle attività artistiche in generale, e quindi è un ben trovati bello, bello intenso. Come ci presenteresti questo lavoro? Nasce da una elaborazione che Emiliano Metalli, che è un drammaturgo con cui collaboro ormai da diversi anni, ha fatto lo scorso anno in occasione di una partecipazione sempre al Teatro Lo Spazio ad una rassegna di corti teatrali. Nasce proprio dalla sua esigenza di rielaborare, ma più che di rielaborare, di attingere al racconto di Edgar Allan Poe, che insomma risale alla metà del 1800 circa, attingendo a questo testo per carpire quelle che sono il lato più torbido dell'essere umano. Perché non ho usato proprio la parola adattamento o riduzione, eccetera? Perché il testo di Edgar Allan Poe è soltanto un pretesto per elaborare l'aspetto più buio, pieno di contraddizioni dell'essere umano. Quindi non è il testo di Edgar Allan Poe rappresentato a teatro, ma è ispirato a quel testo, che è meraviglioso, tra l'altro, un racconto breve, ricco proprio di suspense, un thriller potremmo definirlo noi oggi, però al di là della facciata, cioè della forma di romanzo horror, in realtà sotto nasconde tutto un sommerso di emozioni, di paure, che sono poi quelle che vive l'essere umano tutti i giorni. Come avete pensato la messa in scena? Ovviamente è strettamente dipendente dalla drammaturgia di Metalli. Ha concepito tre quadri, come se fossero proprio tre quadri di arte figurativa, in cui il trade union è quest'uomo, che nel romanzo di Edgar Allan Poe è proprio il giovane dei due protagonisti di quel romanzo, cioè un giovane e un vecchio. Questo giovane, nell'adattamento appunto teatrale, è il trade union che lega questi tre quadri. Quest'uomo è interpretato dal mio collega Bruno Petrosino, che fatto in questo momento è qui perché stiamo provando, e rappresenta proprio l'elemento comune, mentre ciascun quadro ha un referente, un interlocutore di quest'uomo, ogni volta diverso. E adesso non posso ovviamente dire di più, però quest'uomo, che è il giovane del romanzo di Edgar Allan Poe, si confronta ogni volta con personaggi diversi che gli garantiscono una competenza, una consapevolezza rispetto alle sue paure, rispetto alle sue ossessioni, fino a giungere all'ultimo quadro in cui l'uomo finalmente ha raggiunto questa piena consapevolezza e compie appunto tutta una serie di atti che concretizzano la sua conoscenza finale. È un lavoro a cui tengo e teniamo molto, perché l'anno scorso appunto al Teatro dello Spazio ci ha dato una inaspettata gioia legata alle soddisfazioni professionali proprio di questo testo. È stato molto apprezzato, ha vinto appunto questa rassegna, e dal corto è nato proprio questa elaborazione lunga, questa elaborazione più complessa, più articolata. Io credo che il pubblico apprezzi molto proprio la varietà, la coloratura di questi tre quadri che vengono rappresentati. La scenografia, pur essendo minima, è una scenografia comunque molto rarefatta, molto simbolica, allegorica, e rimanda molto alle atmosfere di Edgar Allan Poe. Quindi consiglio vivamente di venirlo a vedere, ma in generale proprio di ritornare a teatro un po' tutti quanti per rimettere in moto la macchina lavorativa del teatro. Per saperne di più ci dai tutti i riferimenti internet? Innanzitutto sulla pagina del Teatro Lo Spazio vi sono tutti i riferimenti con la locandina, gli orari, tra l'altro c'è questa possibilità di prendere anche un pochino di la permanenza in teatro, perché è stato prorogato il coprifuoco alle 23, quindi questo ci consente un maggiore godimento anche del nostro pubblico e anche dell'orario. Quindi ecco, presso il Teatro Lo Spazio, su Facebook, su Instagram, ci sono tutti i riferimenti dello spettacolo. Il 28 e il 29 maggio alle ore 20 e il 30 maggio la pomeridiana alle 17. Lo spettacolo Occhio al cuore di Emiliano Metalli, liberamente ispirato al cuore rivelatore di Edgar Allan Poe, con Mauro Toscanelli e Bruno Petrosino. Un saluto e un ringraziamento, ci sentiamo presto, in bocca al lupo. Grazie e viva il lupo sempre. Grazie a voi. Con Giulio Bassi, uno dei coordinatori artistici del Festival Diffuso di Spettacoli Itineranti, Racconti per Ricominciare, dal 28 maggio al 6 giugno 2021. Giulio, ben trovato. Ben trovati voi, ben ritrovati noi tutti in nome del teatro che cerca di ricominciare. Non è cosa facile, ma ci siamo. Raccontiamo a chi ci ascolta le caratteristiche di questo festival. Riprendiamo praticamente il format che altre volte abbiamo percorso e che l'anno scorso ci ha reso particolarmente attenti e felici, che è quella di costruire una serie di postazioni teatrali in luoghi particolarmente belli, belli per storia, belli per architettura, belli per natura, proponendo in ognuno di questi posti, sono 12, in ognuno di questi dei gruppi d'attori, 4 per ogni posto, raggruppati per tematiche ampie, per possibilità di incontro e di suggestione, a raccontare ognuno di loro, facendo teatro naturalmente, a raccontare una storia che in qualche modo si collega alla storia di quello che verrà dopo e di quello che verrà dopo, costruendo dei piccoli mosaici. 4 attori, ognuno per un quarto d'ora, per un numero contenuto di spettatori, una trentina, distanziati, mascherati, secondo tutte le regole e le necessità del momento. Quindi un teatro in sicurezza, un teatro di sopravvivenza, ma un teatro di necessità. Necessità come sempre la suggestione teatrale, senza di cui tutto sommato patiamo molto e ne abbiamo patito durante quest'anno. Non sono passate certamente le incursioni sue, perché ci hanno ricordato che il teatro è molto più bello dal vivo. Come vi siete orientati per le scelte?

vi racconto questa avventura di Suggestiva. Siamo alla quarta edizione ed è un festival di musica e di scoperta dei luoghi, per cui siamo andati a scovare i luoghi più suggestivi di Roma e del Lazio e ci portiamo dentro degli artisti molto particolari che sono in grado di leggere questo luogo e di trasmettere questa sensazione, appunto, di suggestione, di stupore. Siamo stati negli anni scorsi tra Roma e fuori Roma in dei posti pazzeschi, tipo Monterano Antica, la necropoli etrusca di Cerveteri, castelli, borghi, grotte, eccetera, e quest'anno con Contemporaneamente Roma, quindi il progetto ha vinto Contemporaneamente Roma e Lazio Sound, il progetto della regione, dentro al parco dell'Appia Antica, dove abbiamo scoperto esserci, oltre alla fantastica Appia Antica, dei siti nascosti incredibili. Per me è stata una sorpresa e una scoperta, perché oltre ad andare dentro al mausoleo di Cecilia Metella, abbiamo scoperto il complesso della Villa dei Quintili. Io non c'ero mai stata, ed è tipo arrivare a Pompei, per dirti. C'è questa villa gigantesca, i resti di questa villa gigantesca con un complesso termale, dentro ci sono mosaici, pavimenti con i marmi, queste rovine monumentali, è un posto pazzesco. Oppure il sito delle tombe di Via Latina, con le tombe romane, si scende sotto con queste volte con gli stucchi di 2000 anni, da una parte gli stucchi bianchi, in una gli stucchi conservati, colorati, per cui insomma ci siamo fatti un viaggio nella storia pazzesco e andiamo a portare un cast di artisti molto molto particolari, per cui ti racconto un po' il programma. Abbiamo Wrong on You, che appunto si è esibito alla Villa dei Quintili all'esterno del Frigidarium della villa. Il Frigidarium era appunto la zona quella dell'acqua fredda delle terme, no? Wrong on You in solo con la chitarra. Lui è stato adesso a Sanremo il 1° maggio, al concertone, eccetera, e si è fatto invece questa esperienza così mistica praticamente in mezzo alle rovine e alla natura. Poi Fisheye Corazon, che è il nuovo progetto di Andrea Pesce, Alessio Corazaniti e Defa Cristiano De Fabriti, che fanno una musica psichedelica. Cioè Andrea Pesce che suona i Rhodes e fanno queste sonorità appunto molto ambient, di suggestione, e loro hanno suonato nella chiesa di San Nicola, che è la chiesa che si trova di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, una chiesa romanica del 1300 senza tetto, perché entro c'è la navata centrale, non c'è il tetto, bellissima anche quella. Sempre nella chiesa suona Ainé, Rhodes e voce, poi lui fa R&B, New Soul, cantante insomma molto molto bravo, compone insomma tutte le musiche sue. E Daniele Sciolla, ora ti dico quelli che facciamo nella chiesa di San Nicola, appunto è Daniele Sciolla che fa un progetto di musica elettronica sperimentale con dei momenti un po' più dancefloor e presenta tra l'altro il nuovo disco il giorno prima dello streaming, per cui insomma ci suonerà i brani del nuovo disco. Poi abbiamo nel mausoleo di Cecilia Metella, dentro al mausoleo, nella parte del Castrum Caetani, la band dei Mon, che è un live insomma un po' più forte, sempre molto evocativo, però insomma un po' più pompato, tra virgolette. Gianmarco Ciampa, che è un virtuoso della chitarra classica, dentro ad una delle tombe di Via Latina, tomba che abbiamo scoperto tra l'altro avere appunto un'acustica pazzesca, perfetta per quel tipo di sonorità. E poi l'ultimo giorno concludiamo con il live set di Scasacci dei Subsonica con il progetto Erfonia, in cui unisce suoni della natura con elettronica, e lui suonerà, si esibirà dal giardino porticato della Villa dei Quintili. Invece spostandoci al Ninfeo, gli esecutori di Metallo su Carta con la violinista Yoko Morimio, con un programma appunto sperimentale da Stockhausen a Bach, in quest'altra area del Ninfeo bellissima che affaccia direttamente sull'Appia Antica. Per cui insomma il programma è variegato, è molto interessante, e vanno in onda questi concerti dal 24 al 27 maggio su martechannel.it. Martechannel è la web tv di Marte Live, per cui la direzione artistica è di Scuderia Marte Live, di questo festival, l'organizzazione è di Atmosfera. Ogni giorno quanti appuntamenti? Abbiamo 2 appuntamenti al giorno, uno alle 18 e uno alle 21. Suggestiva, quarta edizione di questo festival Musica Pura per luoghi straordinari, in streaming dal Parco Archeologico dell'Appia Antica a Roma dal 24 al 27 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Lune Magrini di Marte Live. In bocca al lupo e a presto. Ciao, grazie e a presto. Ciao, ciao. Con Francesco Zarzana, direttore artistico del Book Festival a Modena e Sassuolo dal 22 maggio al 20 giugno 2021. Ben trovato. Grazie, grazie a tutti e grazie all'invito come sempre. Presentiamo questo festival per chi non lo conoscesse. Il Book Festival della piccola e media editoria si svolge da 14 anni a Modena. C'è una vetrina che si dà all'editoria indipendente, che credo che appunto di questi tempi, insomma con tutto quello che stiamo vivendo, diventa ancora più importante, perché l'editoria indipendente ha fatto molta fatica nell'ultimo anno. Io dalla scorsa edizione ho aggiunto una bossola, che è il Book Film Festival, che ha la caratteristica di essere un vero e proprio concorso internazionale di lungometraggi, però con la caratteristica di essere esclusivamente tratti da un libro o ad un adattamento letterario. Come saranno caratterizzate queste giornate? Quante editrici ci sono? Dal 22 maggio al 20 giugno, sembra una cosa monumentale di un mese, ma di fatto sono tanti appuntamenti che faranno arrivare al 19-20 giugno il Book Festival Letterario. Questo per non concentrare tutti gli avvenimenti nello stesso weekend e quindi dare la possibilità anche al pubblico di poter assistere a più cose possibili. Gli editori sono poco più di una trentina. Abbiamo deciso di selezionare un gruppo ristretto di editori indipendenti che un po' insomma ci seguono da tantissimi anni, e dare vetrina alla vera editoria indipendente. Purtroppo c'è sempre un po' una lotta contro l'editoria a pagamento, insomma contro purtroppo branche che ancora ci sono, e anche e soprattutto nella piccola editoria. Noi siamo molto attenti a questa eventualità, e le 30 case editrici siamo contenti che comunque abbracciano da un punto di vista geografico tutte le parti d'Italia. C'è anche da dire che questa pandemia ha dato nuovo impulso alla carta stampata. Sì, questo perché a parte un primo shock iniziale, poi pian pianino anche il pubblico, poi siamo stati anche abituati a stare molto a casa, e questo ha permesso anche di leggere molto di più rispetto a quanto si leggeva nei periodi normali. Questo anche un po' le vendite online, soprattutto quando le librerie erano ancora chiuse, ha permesso di ridare anche un po' di impulso, e vedo che ci sono tanti titoli nuovi e questo è solo un bene. Ci saranno incontri con autori e autrici? Sì, questa sarà sempre un po' una caratteristica, cioè quella di far sì che l'editore indipendente possa anche in qualche maniera far conoscere il proprio catalogo, ma anche far venire qualche autore o autrice, e ne abbiamo anche insomma di interessanti che ci faranno compagnia nei due giorni del Book Festival. Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori dettagli? Tutte le indicazioni si trovano nel sito bookfestival.it. Ovviamente ricordo sempre che book è scritto B-U-K e non all'inglese. È un aggiornamento che è continuo, quindi poco alla volta stiamo cominciando a inserire tutte le informazioni. Adesso il primo appuntamento è appunto quello del prossimo weekend con la cinematografia, e poi subito dopo ci concentriamo sulla parte letteraria del Book Festival. Gli eventi si concentrano nei fine settimana? Sì, sono tutti nei fine settimana, perché è anche il momento che la gente ha anche un po' bisogno e voglia di uscire e ricominciare a riappropriarsi degli spazi culturali, quindi anche un po' per agevolare tutte le persone, i giovani. Noi abbiamo un'utenza giovanile molto alta, e quello del weekend serve anche un po' a far sì che il nostro festival ha sempre dato il senso di una sorta di agorà, di una piazza dove ti incontri, dove chiacchieri, dove ascolti. Quindi il weekend è sempre stato un po' il fiore all'occhiello. Tutti gli avvenimenti sono tutti a ingresso libero, non si paga ingresso, non si paga nulla. Noi ovviamente ci auguriamo, come è successo in tutte le altre 13 edizioni passate invece, che il pubblico acquisti tanti libri. 14ª edizione del Book Festival della piccola e media editoria Modena e Sassuolo dal 22 maggio al 20 giugno 2021. Saluto e un ringraziamento al direttore artistico Francesco Zarzana. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi il lupo e io, come sempre, appena chiamate io arrivo subito, perché ormai mi sento a casa a conversare con voi. Con Katia Conti, una delle curatrici della 4ª edizione del Festival della Letteratura di Mandello dell'Ario, dal 21 maggio al 28 agosto 2021. Ben trovata. Buongiorno a tutti, ben trovati. 4ª edizione, quali sono le caratteristiche di questo festival? Principalmente quella di rivolgersi a un pubblico più ampio possibile. Noi cerchiamo di organizzare eventi per bambini, per ragazzi, per adulti, letture ad alta voce, incontri con autori, spettacoli teatrali, cerchiamo di creare un festival il più eterogeneo possibile. Quest'anno è eterogeneo anche dal punto di vista delle location, perché abbiamo eventi a teatro, eventi all'aperto, eventi nei locali. Cerchiamo di invogliare la gente a partecipare trovando la propria dimensione. Quest'anno, a differenza delle altre edizioni, c'è anche una durata di 3 mesi. Sì, esatto. Solitamente le altre edizioni del festival si svolgevano tutte nell'arco di 2 settimane, erano eventi molto concentrati nel tempo. Quest'anno abbiamo scelto di allungare il tempo, quindi di direzionare gli eventi nel weekend e con alcuni appuntamenti infrasettimanali, però non così concentrati. Quanti saranno gli ospiti di questa edizione? Gli ospiti sono 22, alcuni verranno appunto a presentare i libri, altri a fare spettacoli magari più interattivi, e poi abbiamo anche delle associazioni locali che partecipano al festival, magari con letture ad alta voce o eventi di questo tipo, soprattutto per i bambini. Abbiamo una mostra su Gianni Rodari creata con dei disegni, delle opere fatte dai bambini delle scuole e altri eventi simili. Gli incontri e gli eventi si concentreranno nei fine settimana? Principalmente sì, e poi abbiamo degli eventi infrasettimanali dal mercoledì sera soprattutto, in collaborazione con i locali del territorio che organizzeranno delle serate a tema aperitivi o per cena in abbinamento alle varie presentazioni. Quindi c'è anche un po' una volontà di coinvolgere proprio un po' tutte quelle realtà che sono state ferme durante il lockdown, durante la pandemia, per ripartire insieme e realizzare una bella cosa, insomma, degli incontri. Comunque è un festival multidisciplinare, oltre alla letteratura mi dicevi anche di spettacoli. Sì, ci saranno degli spettacoli teatrali, weekend inaugurale, ci saranno degli spettacoli su Gianni Rodari, sia per bambini che anche uno spettacolo musicale per adulti. E poi anche, cioè, sarà uno spettacolo itinerante a fine mese nei boschi qui che circondano Mandello, sempre poi con un incontro con Franco Arminio e le sue poesie, e poi tanti altri eventi da qui ad agosto. Tu hai anche un'edicola libreria, ci parli un po' dell'interesse verso la carta stampata? Sì, esatto, io ho un'edicola che è anche una piccola libreria indipendente qui a Mandello. Io sono contenta di come sta rispondendo la clientela sia al festival, ma anche in generale all'interesse verso l'informazione, verso la carta stampata, verso i libri. Credo anche che il lockdown abbia in qualche modo aiutato questo comparto, perché molti hanno riscoperto o comunque continuato ad affidarsi alla carta stampata per l'informazione. E anche il comparto dei libri ha un buon riscontro, soprattutto in una realtà piccola come la nostra, locale. Avere una piccola libreria di riferimento è decisamente apprezzato. Io collaboro col festival sia a livello organizzativo sia come punto di vendita dei libri che verranno presentati, e a fine agosto ho un piccolo corner in negozio dedicato appunto al festival. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli, comprese le precauzioni anti-Covid? Esiste sia una pagina Facebook che una pagina Instagram. che si chiamano Festival della Letteratura di Mandello, e abbiamo un sito che è visitmandello.it, dove nella sezione eventi si trovano tutti i dettagli dei singoli appuntamenti con il form di prenotazione, perché appunto, visti tutte le normative, gli eventi sono su prenotazione, in modo che possiamo organizzare al meglio i distanziamenti e tutto quello che è necessario organizzare. Purtroppo è un po' un limite, se vogliamo, quest'anno, ma per ripartire in presenza è fondamentale poter capire quante persone parteciperanno negli spettacoli. Quarta edizione del Festival della Letteratura di Mandello dell'Ario, dal 21 maggio al 28 agosto 2021. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Katia Conti. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo a Mandello. Ci vediamo lì. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana, teatrale e non solo. Simone, ben trovato. Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Andiamo a teatro, beh sì, direi che su questo mi sembra un po' il motivo per sentirci e darci un po' degli appuntamenti, ma effettivamente è una settimana in cui restano un po' di spettacoli della scorsa settimana, ma non c'è poi granché, dobbiamo un po' muoverci anche fuori, insomma vedo che le stagioni degli altri teatri italiani stanno regalando forse un pochino più di movimento, quindi insomma a quanto vedo restano un po' in scena i spettacoli di cui già abbiamo parlato la scorsa settimana, ma ne andiamo a parlare in maniera forse anche più compiuta. Resta al Teatro India Fabio Condemi con Gabriele Portoghese, questo è il tempo che attendo la grazia, è un lavoro che ho visto qualche giorno fa, molto interessante sul piano delle immagini, sul piano dell'interpretazione. Portoghese fa un viaggio all'interno, diciamo, delle sceneggiature dei film del poeta Pierpaolo Pasolini e ci porta all'interno di quella che è un po' la sua officina poetica, fino al 30 maggio nella sala Oceano Indiano del Teatro India, mentre invece nell'altra sala Mario Martone, che del Teatro India è il fondatore, possiamo anche andare a ricordarlo, a distanza di tanti anni, ci torna Mario Martone per portare Il filo di mezzogiorno fino al 29 di maggio, un testo che segue l'omonimo libro pubblicato alla Nave di Teseo di Goliarda Sapienza, ed è un'autrice letteraria che ha avuto una fortuna postuma, in realtà soprattutto rispetto al suo capolavoro, L'arte della gioia, e che torna, diciamo, nei ricordi, nel percorso psicoanalitico che la scrittrice ha affrontato. In sera con Donatella Finocchiaro ci sarà Roberto De Francesco, l'adattamento è quello di Ippolita Di Maio, quindi Mario Martone fino al 29 di maggio con Il filo di mezzogiorno al Teatro India. Mentre invece dobbiamo andare anche a parlare del Teatro Argentina, dove resta in scena fino al 30 maggio anche Massimo Popolizio con Furore, il capolavoro di Joe Steinbeck, che è adattato, forse questa è un po' la notizia, da uno scrittore nostro contemporaneo, scrittore di grande rilievo che è Emanuele Trevi, e che Massimo Popolizio si porta in scena con un monologo, il grande capolavoro della letteratura americana, scritto nel 1939, e che racconta un po' il grande affresco della Grande Depressione, per parlare di migrazione, di povertà, di crisi sociale, insomma dei temi su cui anche il nostro tempo non ha nulla da farsi invidiare. Quindi fino al 30 maggio, Teatro Argentina, con Furore di John Steinbeck. Ultime cose di cui parlare, beh, insomma, sicuramente andiamo al Teatro Torlonia, perché con Wonder Woman, scritto e diretto da Arianna Dell'Arti, in scena ci sarà Paola Nicolini per raccontare questo percorso bizzarro di una donna che è costretta a fare i conti con la sua parte oscena, e vediamo come riuscirà a voltare pagina. Venerdì 28 maggio per Sgombro al Teatro Torlonia, stesso teatro dove sta andando avanti il percorso che il Teatro di Roma dedica alle nuove generazioni con le fiabe altrove. In questo caso toccherà a Cenerentola, che sabato 29 maggio alle ore 18, quindi rappresenta il terzo appuntamento delle fiabe che per musica e voce vengono trasformate per la scena dal Teatro delle Apparizioni, Maurizio Pallara con Valerio Maloni, e musica appunto in scena. La musica è di Federico Ferrandina, spettacolo dai 6 anni in su. Poi sarà l'occasione a giugno per salutare, diciamo, un po' di altri lavori di teatro per le nuove generazioni, ma ne parleremo con calma. Novità della settimana è invece andare al festival dedicato all'ecologia, alla scienza, alla donna, si chiama Multiplo Sensibile, nel monomunicipio, l'Officina delle Culture. Il festival avrà anche degli appuntamenti di laboratori e di incontri dedicati alla fisica, alla geografia, alla matematica, alle scienze ambientali, e sarà fino al 31 maggio. Questa settimana, appunto, soprattutto il teatro arriva verso il weekend, venerdì 28 con Siamo Moltitudini di Semi Volanti, che insomma prosegue il percorso di Altri Mondi Bike Tour, ed è un lavoro che ha portato, diciamo, la compagnia a attraversare la divulgazione scientifica in modo giocoso e a viaggiare in bici, conoscendo e promuovendo buone pratiche ambientali legate soprattutto al mondo della rappresentazione scenica. Sabato alle 19 ci sarà uno spettacolo con Laura Nardi al Teatro Marconi, in questo caso dedicato a Marie Curie, una donna premio Nobel per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911, quindi una donna che ha dovuto superare una grande difficoltà, quella di essere donna in un mondo di uomini. Lo stesso sarà domenica 30 per due spettacoli dedicati ai ragazzi con Vite pazzesche, alle ore 17 la storia di Wangari Maathai di con Giada Parlanti, e alle ore 19 la storia di Julia Butterfly Hill di e con Elisa Bongiovanni, due donne che hanno dovuto appunto affrontare questa grande difficoltà di doversi affermare all'interno di un contesto che ha visto negare il loro ruolo di donne importanti, che adesso fortunatamente la nostra contemporaneità sta cercando di restituire all'importanza che spetta a loro. Quindi ricordo Multiplo Sensibile appunto all'Officina delle Culture per questa settimana. E questo, Federico, è tutto. Un abbraccio, Simone, alla settimana prossima. A presto, ciao a tutti. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.